vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 2 luglio, il sole in regione sorto alle 5.20, tramonterà alle 21.02. Domani ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monella e Armando Mucchino. Nanotecnologie e agricoltura, un mondo ancora tutto da esplorare. Un contributo arriva dall'Università di Udine che sull'argomento ha organizzato una 2 giorni di studio, nel servizio di apertura alle possibili applicazioni, a seguire le contromisure per tenere sotto controllo la flavescenza dorata nelle nostre vigne con il decreto regionale di lotta obbligatoria anche per il mondo bio. Ancora macerazione del pigiato e controllo della fermentazione alcolica nella rubrica del vino e a seguire la presenza del lupo nei nostri boschi per la rubrica dei forestali. Quali e quanti lavori si devono fare nel mese di luglio è al centro dello spazio che dedichiamo all'orto, mentre in quello della gastronomia oggi è la volta dei calamari in versione al forno con olive e pomodorini. Andamento dei mercati agricoli in regione, previsioni del tempo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono, come di consueto, la puntata. Nanotecnologie, un termine che sentiamo già da parecchi anni per le sue applicazioni nei vari settori. Non se n'è mai parlato in agricoltura. Per riempire anche questo gap, l'Università di Udine ha organizzato una 2 giorni proprio per capire quali possono essere gli utilizzi prossimi, futuri e auspicabili delle nanotecnologie in agricoltura. Ne parliamo con Luca Marchiol, professore associato all'Università di Udine, che di questo convegno è un po' l'anima. Sì, questo è un argomento, diciamo, che ha un grossissimo potenziale di sviluppo anche in campo agricolo, e questo potenziale arriva con un certo ritardo rispetto a altri ambiti produttivi. Mi riferisco per esempio alla medicina, ad esempio all'energia, ai materiali e molti altri. Da molto poco tempo si sta cominciando a pensare di poter usare questi materiali anche per applicazioni in campo agricolo. L'attività agricola è fondamentale perché da questa noi ricaviamo sostanzialmente il cibo per la popolazione mondiale. La popolazione mondiale sta aumentando, quindi dovrà aumentare anche la quantità di cibo prodotto, ma dal punto di vista dell'efficienza del sistema abbiamo raggiunto dei limiti con, diciamo, l'assetto attuale. Le nanotecnologie potrebbero introdurre, diciamo, un salto tecnologico fondamentale, lavorando, potendo migliorare l'efficienza dei fattori produttivi che oggi si utilizzano. Tenga conto che l'efficienza d'uso dei fertilizzanti più comuni è inferiore al 50%, e in alcuni casi si va addirittura al 20%. Questo vuol dire che se io spendo 100 euro per comprare un concime, solamente meno di 50 euro vanno a finire nelle piante che io voglio nutrire. Quindi sono soldi sprecati, ed è tutto materiale che va a finire sprecato nell'ambiente, va a finire nelle falde e quindi è un danno. E questo vale anche per i pesticidi, per esempio, gli erbicidi. Per cui da questo punto di vista raggiungere, diciamo, una condizione di utilizzo efficiente di questi nuovi materiali sarebbe molto importante per migliorare la produzione e rendere il sistema molto più sostenibile. Abbiamo parlato di fertilizzanti e pesticidi, altri materiali che possono concorrere? Si sta lavorando per esempio sulla possibilità di rivestire i semi con certi prodotti che potrebbero facilitare la germinazione, proteggere di più il seme in una fase di sviluppo nella quale la pianta è molto vulnerabile. E anche altre applicazioni legate, ecco, diciamo, anche a modifiche genetiche, ma questo è un campo ancora più complicato e decisamente più indietro rispetto ad altri. Ecco. L'Università di Udine, il ruolo dell'Ateneo in questa branca? Dunque, noi abbiamo cominciato una decina di anni fa e, insomma, abbiamo trovato un terreno abbastanza aperto. Siamo riusciti a creare delle connessioni con altri colleghi di altri Atenei. Da 7 anni il mio dipartimento, io assieme ad altri colleghi, insomma, coorganizziamo un workshop che si tiene ogni anno a Roma alla Facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma, all'interno di un convegno che si chiama Nano Innovation. E ci è stato chiesto di cominciare in qualche modo ad aprire, ecco, un altro fronte sul tema dell'agri-food, proprio perché è qualcosa che si sta veramente sviluppando. Quando arriveranno sul mercato? Questa è una domanda molto interessante. In alcuni paesi del mondo sono già sul mercato questi prodotti. E mi riferisco ai paesi asiatici, dove c'è, diciamo, un assetto molto diverso da quello degli Stati Uniti e dell'Europa. Nell'Unione Europea non esistono ancora delle norme che consentono di aprire un mercato, per la semplice ragione che ancora non si sa bene come maneggiare questi materiali. È evidente che qualsiasi cosa che vada in campagna, quindi un domani, a nutrire le persone, deve essere assolutamente sicura, e quindi su questo aspetto dei colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità stanno lavorando intensamente proprio per lavorare sull'aspetto, tra virgolette, tossicologico, cioè per studiare i potenziali impatti negativi di questi materiali. Tengo a precisare che noi a Udine stiamo lavorando su materiali di origine biologica, e cioè su scarti di ossa per recuperare dei composti a base di fosforo. Quella della flavescenza dorata è una delle emergenze anche nelle vigne del Friuli Venezia Giulia. Che cosa dice il decreto regionale di lotta obbligatoria per il biologico? Ce lo spiega Cristina Micheloni. Flavescenza dorata in recrudescenza in Friuli, un grosso problema per il convenzionale ma anche per il biologico. Chiariamo però, come non abbia alcun fondamento, come possiamo dirla, narrativa secondo la quale siano proprio i biologici gli untori, ovvero la causa della nuova esplosione dei sintomi. Infatti, i dati del monitoraggio effettuato dalla Regione Veneto dimostrano come proprio i biologici riescano a contenere il principale insetto vettore, lo Scaphoideo titanus, al di sopra del 90%, cioè quasi eliminandolo, usando un insetticida ben meno potente di ciò che già usano i convenzionali e ancor più lontano da quello che alcuni vorrebbero usare. Infatti in bio si usa il piretro naturale, volendo supportato da qualche trattamento con caolino, prodotti che non turbano la biodiversità presente nei vigneti e non hanno alcun impatto sulla salute umana. Ma poco vale il prodotto insetticida se il suo utilizzo non fa parte di una strategia ben più articolata, che non tiene sotto controllo solo l'insetto, ma anche le fonti di infezione, ovvero le viti infette. E come si fa? Prima cosa, bisogna saper riconoscere i sintomi il più precocemente possibile. Su questo possono essere aiutate le foto, che potete reperire anche sul sito ERSA, facendo attenzione alle differenze fra varietà, stadi di vegetazione, organi della pianta, ovvero germogli e foglie. Ed in caso di positività, procedere subito con l'estirpo delle piante infette. Altro punto, monitorare eventuali viti abbandonate o non gestite e in caso agire come sopra. Terzo punto, conoscere il ciclo dello Scaphoideus e saper riconoscere le larve delle diverse età, nonché la ninfa e anche l'adulto, e non confonderlo con altre cicaline. Anche qui le foto aiutano, ma ci si può anche far aiutare da un tecnico. Solo come introduzione, il controllo visivo deve essere condotto sulla pagina inferiore della foglia, sui succhioni e sulle foglie basali delle piante da metà maggio ad agosto, preferibilmente nelle prime ore del mattino, quando gli insetti si muovono ancora poco, evitando di spostare troppo la vegetazione. Bisogna poi sapere quando e come posizionare le trappole e come contare gli insetti sulle stesse. Insomma, non è una cosa banale, ma è fondamentale. Quarto punto, quando si fanno i trattamenti bisogna essere tempestivi e precisi. Il piretro è efficace sulle larve di prima e seconda età, molto meno su quelle di terza e quarta e praticamente per nulla sugli adulti. Il caolino, usato sulle larve di prima e seconda età, può ridurre anche del 60% la popolazione di Scaphoideus. Questo quanto emerso dalla prova di Aia Priuli Venezia Giulia in corso nel Pordenonese. Quinto punto, i prodotti vanno conosciuti nella loro natura e meccanismo d'azione, nonché nei loro punti di forza e debolezza. Il piretro naturale soffre il pH basico, quindi controllate l'acqua e in caso acidificate. Viene degradato dai raggi solari, quindi meglio fare i trattamenti verso sera, così l'efficacia dura di più, e meglio anche in sere fresche, su questo possiamo far poco. Nell'effettuare i trattamenti bisogna essere certi di bagnare bene i polloni e la parte più bassa della vegetazione, dove i giovani prediligono stare. Per avere successo non basta il prodotto, ma ci vuole una strategia di cui fanno parte precisione e tempestività nei trattamenti, che non possono prescindere dalle specifiche condizioni del singolo appezzamento. Sempre parlando di macerazione del pigiato, oggi il professor Roberto Zironi affronta l'argomento della gestione della fermentazione alcolica in macerazione. I vitigni autoctoni a bacca rossa, in un determinato territorio, maturano normalmente in epoche più avanzate rispetto a quelli a bacca bianca. Se le temperature e la vendemmia sono basse, l'inizio della fermentazione può essere ostacolato. In questo caso è utile riscaldare il mosto sino a una temperatura di 20 gradi ed inoculare una coltura di lieviti selezionati. Negli ambienti meridionali, specialmente se le uve sono vendemmiate nelle ore più calde della giornata, si realizzano condizioni opposte. Le fermentazioni spontanee iniziano rapidamente con un repentino innalzamento della temperatura. Ad una temperatura iniziale di 26-28 gradi, il riscaldamento della massa, combinato con la produzione di etanolo, può bloccare l'attività dei lieviti, senza però impedire lo sviluppo dei batteri contaminanti. Anche in questo caso è utile portare rapidamente la temperatura del pigiato intorno ai 20 gradi per poi procedere con l'inoculo di lieviti selezionati. La fermentazione alcolica produce calore, ma una parte di questo viene disperso nell'ambiente. Ad una fermentazione lenta corrisponde pertanto un minore accumulo di calore. alcuni fattori ambientali influenzano la velocità di dissipazione. Da questo punto di vista, la forma, il volume e la coibenza dei contenitori sono importanti. Un contenitore di minore capacità avrà una superficie disperdente maggiore rispetto a uno più voluminoso. Oggigiorno i contenitori utilizzati per le fermentazioni sono forniti di dispositivi frigoriferi per lo smaltimento del calore, ma nella vinificazione con macerazione, nella massa in fermentazione è presente la sostanza solida costituita dalle bucce, che presenta un elevato potere coibente. Inoltre le bucce disperse nel mosto, durante la fermentazione si concentrano nella parte superiore del contenitore. La fase liquida sottostante è di facile condizionamento termico, mentre lo smaltimento del calore accumulato nelle vinacce è molto più problematico. Per ridurre il differenziale termico tra la massa liquida e la vinaccia, si agisce innanzitutto scegliendo dei contenitori che garantiscono un'ampia superficie esposta all'aria che favorisce lo smaltimento naturale del calore. Ideali sono i maceratori con rapporto altezza-diametro di 1:1, 1:5:1. Un secondo intervento di condizionamento termico si realizza iniziando sempre le attività fermentative ad una temperatura intorno ai 20 gradi, per permettere un limitato accumulo del calore nelle vinacce. Infine, le folature e i rimontaggi necessari per risciviare ed estrarre i costituenti utili dalle parti solide dell'uva disperdono il cappello nella fase liquida e la sua temperatura tenderà ad equilibrarsi con quella del mosto in fermentazione che è stato precedentemente condizionato termicamente. La scorsa puntata avevamo parlato dei grandi carnivori che popolano anche i nostri boschi e foreste. Il Corpo Forestale Regionale da anni li segue e monitora. Oggi l'ispettore Dario Di Gallo ci parla del lupo in regione. Il ritorno del lupo riguarda ormai tutte le regioni dell'arco alpino. La ricolonizzazione di territori da cui era scomparso da secoli è un fenomeno del tutto spontaneo. In nessuna parte d'Europa il lupo è stato reintrodotto dall'uomo. Si tratta di un fenomeno naturale di dispersione, ovvero di ricerca da parte dei giovani di areali liberi. Questa espansione spontanea, con popolazioni provenienti da ovest, Appennino e poi le Alpi, e da est, area balcanica, è stata favorita da molteplici fattori. Lo spopolamento della montagna e delle aree rurali, la rinaturalizzazione delle zone boscate dei prati pascoli, l'incremento delle prede naturali, ungulati selvatici, l'istituzione di parchi e aree protette, ma soprattutto l'emanazione di norme nazionali ed europee di tutela a favore dei predatori. La storia del lupo, Canis lupus, è da sempre legata alla storia dell'uomo, che 14.000 anni fa ha iniziato la sua domesticazione dando origine al cane, Canis lupus familiaris, il miglior amico dell'uomo. Il lupo è un mammifero carnivoro dotato di grande adattabilità ambientale. È una specie prevalentemente diffusa negli ecosistemi forestali, ma frequenta anche le praterie aperte, sia in quota che in pianura, e perfino le coste a macchia mediterranea. Gli ungulati selvatici sono le sue prede principali, ma si adatta con grande plasticità ad alimentarsi con specie diverse, comprese gli animali domestici e il cibo delle discariche. L'adulto pesa 35-40 kg, altezza alla spalla 70-80 cm, per una lunghezza tra i 100 e i 140 cm. Le femmine sono più piccole. Non è facile distinguere un lupo da un cane come il pastore tedesco o il cane lupo cecoslovacco. Si distingue ad un occhio esperto per la corporatura snella e lunghe zampe, testa robusta, orecchie triangolari a base larga, mai così lunghe come nei cani, zampe anteriori con delle leggere barre scure verticali e la punta della coda è scura. Le impronte non sono di aiuto nel riconoscimento. L'incrocio con le attività di un lupo è un evento molto raro, come pure gli avvistamenti a distanza. In regione, dove la sua presenza è attualmente molto scarsa, la probabilità di incontro è bassa. Nella prossima puntata vedremo le sue interazioni con la nostra società. Mese ricco di prodotti, soddisfazioni e lavoro anche per l'autunno, quello di luglio in orto, come ci dice Sara Bosco. Nel mese di luglio ci sono molte attività da effettuare nel nostro orto, in quanto è un momento ricco di colture in fase di raccolta, ma vengono anche predisposte quelle che saranno poi pronte nel periodo autunnale. Tra le varie attività più importanti da considerare, viste le alte temperature del momento, c'è l'irrigazione. L'acqua va distribuita la mattina o la sera, se avviene per aspersione ovvero dall'alto, in quanto bisogna evitare che le foglie delle nostre colture vadano a contatto con l'acqua fredda e quindi subendo poi delle scottature. Non bisogna però trascurare nemmeno la gestione delle malerbe, in particolare di quelle presenti a ridosso delle nostre colture, delle nostre piante, perché possono entrare in competizione per il fabbisogno idrico e nutritivo. E questo può causare un ulteriore stress dei nostri ortaggi con ripercussioni su crescita e poi anche sulla produzione. Nei terreni più argillosi si può verificare la formazione di una crosta superficiale dovuta alla velocità di evaporazione dell'acqua del terreno. E questo va a provocare una riduzione dell'aria presente nel terreno. Per evitare questo tipo di problema è consigliato muovere la terra mediante sarchiature, con le zappe, per ridare l'ossigeno alle radici. Come anticipato, ci sono molte colture pronte alla raccolta, tra cui cetrioli, zucchine, pomodori, insalate, iniziano anche le patate, i peperoni e le melanzane. Sicuramente se le piante sono state messe a dimora in pieno campo potrebbero richiedere un paio di giorni in più rispetto a quelle presenti sotto tunnel. Le colture invece da seminare o trapiantare in questa fase sono degli ortaggi che saranno poi pronti nel periodo autunnale e alcuni anche nel periodo invernale. Infatti è il momento giusto per seminare tutti i tipi di radicchio invernale, i finocchi, i cavolfiori, affinché questi possano accrescersi in modo adeguato se devono poi resistere a delle temperature più rigide. È importante che in questo periodo l'orto non venga abbandonato, in quanto si rischia un cambiamento repentino della sanità delle nostre colture e una perdita consistente del raccolto. Oggi Roberto Zottar, con la complicità di zia Rita, ci parla dei calamari, qui in una versione al forno con olive e pomodorini. Proprio mentre ora stiamo trasmettendo, sta iniziando a Grado il rito del famoso Perdon de Barbana, una tradizionale processione votiva con un suggestivo corteo di barche. Parlando di Grado quindi, la ricetta di oggi sarà a base di pesce, anzi di calamari, conosciuti con il nome scientifico di L'Oligo vulgaris. I calamari, calamaro europeo o comune, sono molluschi il cui nome è originario dal greco calamos, calamo, termine che da un pezzetto di canna usato come penna è passato ad indicare nel Medioevo il vasetto per l'inchiostro, con evidente allusione alla sostanza nera che questo mollusco emette quando si sente minacciato. In cucina il calamaro si presta a molte preparazioni. Quando è un calamaretto molto piccolo, si consuma intero e può essere fritto, grigliato, lessato, in insalata e in umido. Se è di dimensioni maggiori, fino a circa 20 cm, la sua miglior preparazione è ripieno. Se è grande, se ne consiglia il consumo fritto o in umido. In quest'ultimo caso, creando un sughetto abbondante, si potranno condire anche i bucatini. La ricetta di oggi di calamari al forno è di Rita, ottima cuoca e compagna di Nordic Walking, che mi ha suggerito la ricetta durante un'escursione. Con i calamari ho sempre il timore che in cottura rimangano duri, ma se seguite le istruzioni di oggi vi verranno teneri e gustosissimi. Prendete 1 chilogrammo di calamari di media pezzatura, fanno bene anche quelli surgelati, mondateli, tagliateli ad anelli e metteteli in una ciotola. Irrorateli con poco olio d'oliva, qualche cucchiaio di pan grattato e un po' di prezzemolo tritato. A piacere potete aggiungere anche uno spicchio d'aglio tritato fine, un paio di cucchiai di semola rimacinata o dei bocconcini di pane e del parmigiano grattugiato. Aggiungete 400 g di pomodorini datterini tagliati a metà e 150 g di olive nere denocciolate, salate, pepate, mescolate e versate in un singolo strato in una teglia coperta da carta da forno. Cuocete in forno caldo a 200 gradi per 20-25 minuti. Sono splendidi, tenerissimi, gustosi ed adatti a questo caldo estivo. Buon appetito! E con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole dai campi di commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14%, è stato quotato fra 23,70 e 24 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 16,30 e 16,80 e la soia tra 45,20 e 45,70. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 8 euro al quintale e l'orzo di 12,40 centesimi. Leggera flessione sui prezzi del settore zootecnico. Le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3,15 e 3,65 euro al chilo IVA esclusa. Quelle di seconda fra 2,55 e 3,15. Nel comparto dei vitelli da ristallo, quotazioni stazionarie. I Blubelga maschi sono quotati tra 6,30 e 6,80 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi fra 4,70 e 5,20, i frisoni tra 2,10 e 2,40, i bruni alpini fra 1,60 e 1,80. In lieve calo invece il mercato dei suini, con i natonzoli di 30 kg quotati franco partenza fra 4,52 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 2,09. Prezzi riflessivi nel comparto dei foraggi, con leggero calo dell'erba medica per l'inserimento dei nuovi sfalci che viene quotata tra 29 e 30 euro il quintale IVA esclusa. Il fieno Magengo di pianura si paga tra 15 e 17 euro e la paglia di cereali pressata si quota fra 8 e 10 euro il quintale. Con il previsore dell'ARPA Gabriele Fasano diamo un'occhiata alla meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. La terza decade di giugno ha visto per la prima volta dell'anno l'arrivo dell'anticiclone africano, con la sua spinta d'aria calda a tutte le quote e la stabilità del tempo, enfatizzata anche dal periodo dell'anno con le giornate più lunghe e ovviamente col sole più forte. Lo zero termico è salito a ben 4.500 metri e a 2.000 metri di quota si sono avuti anche 20 gradi di media, valori in quota assolutamente eccezionali per giugno. In pianura si è arrivati fino a 33-34 gradi. È stata l'APA però la caratteristica più rilevante al suolo di questo periodo, con dati di umidità decisamente elevati e quindi poco tollerabili associati al caldo. Il 23 si sono avuti dei temporali sparsi per un fronte che ha ricambiato completamente l'atmosfera, che nei tre giorni seguenti, dal 24 al 26, è stata più secca e gradevole rispetto ai giorni prima. Le massime sono scese un po', ma sono rimaste sui 30 gradi in pianura. Meritano di essere citate le giornate del 25 e del 26 con cielo completamente sereno, in quelle che potrebbero essere le due giornate a maggior radiazione solare dell'anno. Il 27 una depressione ha determinato variabilità e ancora qualche pioggia e qualche temporale. Poi il mese finisce con cielo poco nuvoloso e temperature nella norma. Un giugno dai due volti. La prima parte è decisamente instabile, con frequenti e abbondanti piogge e temporali, quindi una situazione più primaverile, mentre la seconda metà del mese è stata decisamente estiva. Il mese chiude con una temperatura media leggermente sopra la norma grazie al caldo della terza decade. Le piogge sono state nella norma anche se vi sono differenze da zona a zona per la prevalenza dei temporali rispetto a piogge dovute a perturbazioni estese. Passando alle previsioni per i prossimi giorni, la giornata di oggi sarà caratterizzata da prevalenza di tempo buono su pianura e costa, mentre in montagna ci sarà maggiore variabilità. Qui nel pomeriggio saranno possibili dei rovesci e qualche temporale, e non è escluso che qualcuno di essi possa coinvolgere anche le zone di alta pianura. La nuova settimana si aprirà all'insegna della variabilità e dell'instabilità, a causa di aria umida che persisterà negli strati medio-bassi dell'atmosfera. Sia lunedì sia martedì, infatti, avremo nuvolosità variabile, più consistente verso la montagna e un po' meno verso la costa. E saranno possibili rovesci sparsi su diverse zone della regione, e in più momenti. Le zone favorite saranno comunque quella montana e di pianura, specialmente nelle ore pomeridiane. Saranno possibili anche dei temporali. Anche la seconda metà della settimana sembra prospettare una situazione dinamica, con prevalenza di sole, ma anche occasioni per altre instabilità, comunque moderata. Le temperature saranno su valori estivi, con massime in pianure attorno ai 30 gradi. Vi invitiamo a seguire sempre le previsioni sul nostro sito per avere tutti gli aggiornamenti e i maggiori dettagli. Buona domenica! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Se la canicola è chiate sud, è l'asse sud. Se chiate bagnat, è l'asse bagnat. Ovvero, se la canicola trova asciutto, lascia asciutto. Se trova bagnato, lascia bagnato. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monella, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.